Mancano pochi secondi alle 7 del mattino. Un manipolo di eroi si presenta nello studio di Rock FM, City in via Locatelli 1, 20-124 Milano. Lì, di fianco a Piazza della Repubblica, per capirci, davanti alla stazione centrale. Ecco. Questo manipolo di eroi, almeno in questi primi minuti, è composto dal fedele Spadino, ciao, e dall'Ariele, ciao, che sono io. Spadino non lo sentite, è quello che sta di là, che fa partire i rumorini. Ed è anche colui che è al mio comando, devi aspettare il comando, fa partire la sigla. Io lo do col ditino il comando, sei pronto? Sigla! Bravo, non ci sei cascato. Sigla, vedi, col ditino sono fermo. Sei pronto, ditino? Eccola! C'è sintonia tra me e il mio tecnico, come tra noi di Pane, Burro e Rock and Roll e tutti voi! Pane, burro e rock and roll. Quanti siete? La tua colazione. Non ci stareste tutti nella sala di Spadino. Pane, burro e rock and roll. Che pure ha una sala gigante, eh? Dovreste vederla la casa di Spadino. E sembra un centro sociale. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. Non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Buongiorno a tutti quanti, amici ed amiche della colazione più rock d'Italia, sulle frequenze di Rock FM, per l'appunto Pane, Burro e Rock and Roll. Quest'oggi segniamo la tacchetta sul mixer della puntata 173 e ci siamo ancora, Sembra un miracolo, ma ci siamo ancora. Tireremo dritti, o almeno questo è l'obiettivo, fino alle 9 del mattino. Sì, sono un po' dislessico, ma poco, ragazzi, perdonatemi. Ho avuto un'infanzia difficile. E poi già Dio mi aveva fatto bello, quindi non potevo anche essere bravo a parlare. Sì, anche quest'oggi l'umorismo regnerà sovrano in queste due ore radiofoniche. Ve le ascolterete tutte? Bravi! Ne ascolterete solo un pezzettino? Male! Perché comunque potete fare i compiti a casa e riascoltare la puntata su RadioRockFM.com. Abbiamo una dozzina di novità pronte a partire che non ci sto più nella pelle, capito? Oggi è giovedì, quindi domani ultima puntata della settimana, domani c'è Zorro, ragazzi. La nostra prima radionovela. Che emozione, che emozione! E poi ci sono un po'... Non posso dire niente, non farmelo dire, Spadino. No, no, non glielo dico. Iniziamo con la musica. No, no, non gli dico niente. Zitto, zitto! Iniziamo con i The Band, la storica formazione che accompagnò anche Bob Dylan. Questa è The Weight. Mi fa strippare sta canzone. Se il conto alla rovescia ha sbagliato. I saw Carmen and the devil walk inside the side. a favor, son, won't you stay and keep Annalee company? Prendevano nella band, pigliavano tutti quelli della band, eh? Li raccattavano per strada. Ricordo anche un bellissimo film documentario fatto proprio sulla formazione The Band, che suona male dire sulla band The Band, una ripetizione. Si chiamava The Last Waltz. È una notizia importante questa, perché non avessi sbirciato i test attitudinali delle prossime puntate, capite a me, ricordatevi questa cosa perché potrebbe tornare utile. Tra l'altro è anche un bellissimo film, è un documentario su questo ultimo concerto, l'ultimo valzer, si chiama The Last Waltz. Ci sono anche un fracasso di ospiti e tutti che se la cantano. E da quando ho visto quel pezzettone lì, che tutte le volte quel pezzettone, quella pellicola lì, pezzettone è un'altra cosa, tutte le volte che poi risento The Wait mi viene voglia di cantarla così in maniera sbracata. La nostra è una trasmissione sbraccata e quindi ci lasciamo andare. Lasciatevi andare anche voi che non avete un microfono che a volte si accende, anche quando non dovrebbe. Vabbè. 31 gennaio 2008, l'anno della svolta. Dovrebbe arrivare Frick, abbiamo avuto notizie di lui, sta per accedere agli studi di Rock FM. E quindi direi, dal repertorio andremo con l'almanacco del giorno che fu per scoprire cosa è accaduto nella storia il 31 di gennaio, che poi è l'ultimo giorno di gennaio. Aia. Non mi spiace per il calendario che dovremmo girare la pagina dei Ramones. Mi piaceva tanto. Noi che abbiamo il calendario, dico. E loro che non ce l'hanno, beh, possono scrivere alla mia casella di posta elettronica ariel@radiorockfm.com. Se il buon Isacco Rizzi non è ammalato anche oggi, vi rispondiamo. Vi ho dato la... mi sento sempre in colpa quando parlo di queste cose. Do il numero di SMS 335 100 7777, può servirvi per qualsiasi eventualità. Noi siamo qui pronti ad accogliere il vostro grido disperato d'aiuto, soprattutto. E i saluti e i complimenti, quelli, guardate, vanno sempre bene. Ok, per voi che siete ancora lì a metà tra togliere il pigiama e mettervi i pantaloni, mollate tutto, così si scende in strada e si balla, via, ok? Sì, sì, in mutande. Tokyo, Milano, Firenze, Pisa, Lugo di Romagna. Ehi, sono Mick Jagger e David Bowie a invitarvi. Si aprono le danze. E così, pianin pianino, lemme lemme, step by step, sì, passetto dopo passetto. È riuscito ad arrivare in via Locatelli 1, buona giornata. Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a lei DJ Ariele e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Siamo arrivati anche in fondo al mese di gennaio. È andata. Colpo di scena oggi, giovedì 31 gennaio. Sì. Vi ricordiamo nell'almanacco del giorno che fu che, nonostante la democrazia, la più grande nazione democratica del mondo, sì, gli Stati Uniti, è successe che nel 1876 il governo degli USA ordinò a tutti i nativi americani, i famosi pelli rosse, sì, gli indiani, di trasferirsi nelle riserve. Beh, qualcuno doveva pur dirglielo, giusto? Ma infatti, sa perché gli indiani sono detti anche pelli rosse? Perché? Perché vivono nelle riserve. È una battuta che riguarda il colore della pelle, sono in riserva perché vivono in riserva. Bene, ma passiamo oltre. Nel senso la spia della benzina, sì, l'ho capita. Cosa, no, era carina. Da lavorarci su potrebbe diventare su, carina. Esatto. Proseguiamo. Apriamo una nuova rubrica presto. Lavoriamoci diciamo, su sulle battute. 1930, la 3M mette sul mercato lo scotch. Lo scotch, che poi insomma decidiamoci. Chiamiamo le cose col loro nome, sì, senza ambiguità. Lo scotch, sì. Qual è lo scotch che si beve e quello che si incolla? No, lo scotch che pizzica è quello che si incolla, quello che si beve è liquido. Ah, era così semplice. Vabbè, proseguiamo. 31 gennaio del 1950 il presidente statunitense Harry Truman annuncia un programma per lo sviluppo della bomba all'idrogeno. Evviva! Un'allegra prospettiva, lo sviluppo della bomba grande all'idrogeno. Grande l'almanacco di quest'oggi, complimentoni alla nostra redazione, capitanata da Isaac Rizzi, che ce lo fa chiudere in bellezza. 1951 è Grazie dei fiori, cantata da Nilla Pizzi, la canzone vincitrice della prima edizione del Festival di Sanremo. Questo è rock? No, no, direi no. Decisamente no, ma sappiamo comunque. Lei ha detto direi decisamente no. Direi decisamente no per far rima con rock. Fatto bene. E la cosa mi piace. Comunque, per il bagaglio culturale del rocker, sappiamo che siamo venuti a sapere che il 1951 è stato l'inizio del disastro Sanremo. Quindi sì, dobbiamo avere le informazioni, tutte le anche quelle bene, negative. Questa nuova lettura mi piaceva. Sì, e vorrei concludere in bellezza intonando grazie a Dio. Prego, maestro. Grazie dei fiori, sì. Tra tutti quanti li ho riconosciuti. C'è intensità. Mi hanno fatto tanto male al cuore, ma li ho graditi. Maestro, complimenti, mi sta facendo commuovere. Grazie. Killer on the Loose, buona giornata a tutti voi, anche a quelli che ci contattano via SMS. La colazione l'ho già fatta, ma senza pane, burro e rock and roll non ho l'energia per affrontare la giornata. Che tenero. Metal ferro tranviere, così si firma. Ciao. salutone a Sam da Firenze che vorrebbe la la nostra pre-sigla, addirittura, nemmeno la sigla, perché è rilassante. Poi abbiamo aggiornamenti sul nostro carro di celle di domenica per il raduno surrealista. Direi che i ragazzi hanno lavorato, mi confermano anche il reparto audio pronto. Ragazzi, devo preparare i CD allora, mannaggia a me. No, li faccio, giuro. Pensavo di fare un po' di una compilation di rock tematica sul treno. Questa era la mia idea. Portare un microfono. No, ma io mi vergogno poi di parlare. Vabbè, ci penso. Saluti anche alla CRI, Anita da Firenze, patentata 944. Voglio cambiare lavoro e aspetto una risposta. Quintalozzo da Firenze richiede strombazzata, che pronterrima ovviamente arriva. Funzionano, era un po' che non richiedavate le strombazzate. Mi chiedono se posso fare col ditino tipo l'annunciatrice della Rai, no? Ma quello lo fa già la concorrenza, noi cerchiamo di fare un po' così, quelli diversi. Mentre ho un piccolo problema da risolvere, ragazzi, perché qui non ne sappiamo nulla. Arriva una mail di Adriano e chiede una risposta entro le 8:15, cioè dopo le 8:15, quindi sto ragazzo adesso non sta ascoltando, starà dormendo. Lui mi chiede cosa ne pensiamo, tra l'altro, scusate, dell'iniziativa Baccini Povia per il 27 febbraio a Sanremo. Mai sentito nulla. E visto che vuole una risposta dopo le 8:15, se qualcuno di voi sa qualcosa, avete una quarantina di minuti per darci una delucidata veloce di cosa sta trattando questa. Baccini Povia. Poi che ci fregano i di Baccini Povia? Con tutto il rispetto per i ragazzi, ma insomma, no, Baccini ha, ma povera quello dei bambini, oh dai, su, anche no. Baccini poverino per anzianità forse, e poi perché era uno un po' così, vabbè, quella questa è la sveglia giusta, le campane a morto. Questi sono gli AC/DC in versione originale. Niente proprio. Ci sono quelli con la bocca pronti a partire, ragazzi. Gli AC/DC con la bocca, sì. Suonati senza nemmeno uno strumento, solo con la cassa toracica. Prossimamente, su Pane, Burro e Rock and Roll. Proprio il Bells l'ho finita ieri notte, sì. Cosa più divertente sono state le campane, che nella musica rock con la bocca fanno così. Sì, non è proprio come l'originale, però fortunelli voi che adesso sono in originale. Si prosegue con Hell's Bells e via. We'll be right back.